in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa internazionale. Come potrete immaginare, diamo innanzitutto spazio a quello che sta succedendo in Spagna. È una situazione ancora incerta, ogni giorno sembra esserci un colpo di scena. Parliamo naturalmente delle mosse politiche dopo il referendum considerato dal governo centrale spagnolo di Madrid, guidato da Mariano Rajoy, illegale, ma che un referendum per l'indipendenza della Catalogna, e ora bisogna capire cosa fare di questo risultato. Nessuno di fatto lo sa. È molto interessante perché davvero si è sentito di tutto di più, e io a volte direi anche molti sproloqui, specie da parte di politici non spagnoli o comunque di analisti non spagnoli, e ho sentito anche fare paragoni col referendum che si terrà qui in Italia il 22 di ottobre per la cosiddetta indipendenza, maggiore indipendenza del Veneto e della Lombardia. In ogni caso, questo articolo fa un pochino di chiarezza, anche perché pensate a che cosa possa significare dichiarare l'indipendenza sulla base di un referendum al quale hanno partecipato una minoranza delle persone che vivono in Catalogna, e quindi davvero non si sa quanti poi siano invece favorevoli a restare parte della Spagna. Il titolo di questo pezzo, che trovate su Vox Europe, è del direttore editoriale responsabile della versione spagnola di Vox Europe, che si chiama Sergio Cebrián, e si intitola Un'enorme truffa, ed è bellissimo la vignetta che lo illustra, perché c'è un signore tutto vestito di blu con la bandiera tipica con le stellette gialle dell'Unione Europea su una gamba dei pantaloni, lo tira per i pantaloni un bambinetto che però ha la faccia inconfondibile del presidente della Catalogna Puigdemont, che sicuramente anche solo per quel taglio di capelli effettivamente ha molto dell'infantile e ha dei comportamenti molto difficili da decifrare al di fuori della Spagna. Per questo vi segnalo questo articolo, che sostanzialmente dice sicuramente la Catalogna ha tante differenze, compresa la lingua catalana è sicuramente molto diversa dallo spagnolo, tanto che per esempio, se andate a vedere su moltissimi siti spagnoli, istituzionali o no, c'è proprio anche la traduzione in catalano, quindi per esempio questo è sicuramente un forte elemento a favore di una maggiore indipendenza. Da qui a staccarsi dalla Spagna naturalmente è un'altra cosa, e su questo vi segnalo anche l'articolo di El País, che in questo caso lo trovate sul sito di Vox Europe, pubblicato all'indomani del voto, che si intitola Referendum in Catalogna, la Brexit spagnola. Sapete che appunto si è parlato anche di questo, perché un altro tema al quale per ora nessuno sa dare un'altra domanda, un'altra grande questione alla quale nessuno sa dare per ora una risposta è se la Catalogna si staccasse dalla Spagna, che cosa succede nei rapporti con l'Unione Europea? Anche qui grandi incognite. Passiamo a un giornale tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cambiamo completamente argomento, perché il risico aereo, sapete, è vero, se da una parte è vero che crescono i passeggeri a livello globale, le persone che usano l'aereo, è anche vero che alcune compagnie aeree sono in difficoltà, e il caso Alitalia, è inutile anche parlarne perché Alitalia è in crisi praticamente da quando esiste, però ci sono anche altre compagnie aeree che per ragioni diverse hanno problemi. Naturalmente c'è Ryanair con il fatto degli aerei che hanno dovuto fermarsi, i voli cancellati perché Ryanair non aveva pianificato per bene le ferie dei suoi piloti. Anche qui ancora tutto molto difficile da capire. Invece in Germania è fallita un'altra low cost, la Air Berlin, e da qui la FAZ spiega che 1400 dipendenti potrebbero essere licenziati entro la fine di questo mese. Pare appunto che la compagnia, essendo completamente insolvente, abbia 8000 persone. Si sta cercando naturalmente di, come si sta cercando di fare con Alitalia, di trovare un acquirente, però intanto comunque 1500 persone entro la fine di questo mese verranno licenziate. A proposito invece di questa, quasi la trovo una buona notizia, forse c'è chi mi definirebbe luddista, o forse pensa che comunque sia una decisione abbastanza strana, però BNP Paribas, che è uno dei più grandi istituti bancari francesi, presente anche in Italia perché ha fatto delle acquisizioni in Italia, secondo Le Figaro non finanzierà più i gruppi specializzati nella produzione di petrolio e shale gas, che sapete quel gas ricavato con un processo molto controverso tra le organizzazioni, molto controverso perché vi si oppongono le organizzazioni ambientaliste praticamente all'unanimità, perché provoca degli sconquassi geologici. In questa intervista alle Figaro il direttore generale del gruppo bancario francese Jean-Laurent Bonafé ha delineato questa svolta, che viene definita una svolta in senso ecologico. E quando dicevo che ha fatto importanti acquisizioni in Italia BNP ha acquisito anni fa la BNL, quindi insomma potrebbero esserci delle conseguenze anche per le filiali italiane di questi giganti del petrolio. Di fronte al cambiamento climatico, ha spiegato questo manager, gli attori dell'economia mondiale hanno l'obbligo di impegnarsi più risolutamente nella transizione energetica. Tra l'altro, contemporaneamente, parallelamente a questo disimpegno rispetto all'industria del petrolio, BNP prevede di impegnare, ha detto sempre in questa intervista il direttore generale, di impegnare entro il 2020 circa 15 miliardi di euro nel finanziamento delle energie rinnovabili. Un altro giornale francese, Le Monde, ha invece concesso un'intervista, o meglio, Le Monde ha ospitato un'intervista a Emma Bonino, che ha parlato soprattutto del tema dell'immigrazione in Italia e in Europa e di come si può fare per arginarla quando è illegale o comunque quando è gestita soprattutto da trafficanti di uomini, ma anche una volta che queste persone che scappano quasi sempre da situazioni terribili o di guerra o di carestia o di violenza o comunque situazioni in cui non intravedono una speranza, in cui sembra la speranza persino un viaggio dall'esito molto incerto attraverso il Mediterraneo, dice Emma Bonino, bisogna smettere di usare la parola invasione, e tra l'altro è anche abbastanza critica contro le scelte dell'attuale governo italiano, che sapete, avendo cambiato ministro degli interni nel precedente governo era Angelina Alfano e ora invece è Marco Minniti, da gennaio circa, e Marco Minniti, sapete, ha messo a punto una politica completamente diversa e gli sbarchi sono molto diminuiti, dalla Libia in particolare. A proposito di uscite, di Brexit, una storia infinita, Financial Times spiega che Citigroup, che è una delle più importanti banche americane, si prepara all'uscita dal Regno Unito e dall'Unione si prepara all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, cioè si prepara alla Brexit, guardando a Lussemburgo come una nuova sede per alcune attività europee. Quindi eccoli qua anche alcuni effetti della Brexit. Cambiamo argomento e cambiamo anche proprio area geografica, perché dall'Europa ci spostiamo in Israele. Haaretz, che è un quotidiano israeliano secondo me molto equilibrato, nel senso che ha cercato sempre tra l'altro un'edizione tradotta in inglese, quindi si può anche leggere abbastanza facilmente, un'edizione online, ha sempre cercato di tenere vivo quel dialogo tra i palestinesi e gli israeliani, lo Stato palestinese che c'è o non c'è, è anche difficile dirlo, e lo Stato israeliano, per arrivare finalmente a una pace nell'area. E uno degli editoriali degli scorsi giorni si intitola Ultima chiamata per Israele. I sostenitori della soluzione dei due stati per mettere fine al conflitto israelo-palestinese, ovvero la maggioranza delle persone in Israele e nel resto del mondo, o quasi, osservano impotenti l'accelerazione della spirale distruttiva provocata dalla gestione irresponsabile del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il 22 settembre, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente palestinese Abu Mazen ha avvisato il mondo dell'inversione di tendenza in atto. E vi leggo le ultime righe. solo una mobilitazione urgente di tutte le forze all'interno di Israele e della comunità internazionale che vorrebbero uno Stato israeliano forte e libero accanto a uno Stato palestinese indipendente potrebbe fermare questa deriva e riproporre la soluzione più logica, giusta e fattibile per mettere fine all'occupazione israeliana e ottenere la pace. È la nostra ultima possibilità. Tutto quello che non otterremo in tempi brevi non lo avremo mai più. Sicuramente una visione pessimistica, però calcolate da quanti decenni si discute per avere una soluzione e non la si trova, e capite che soprattutto vivendo in quelle zone si può essere presi dal pessimismo. Ultima segnalazione ve la faccio, è un articolo tradotto da Internazionale, che trovo bellissimo, da una rivista scientifica di divulgazione scientifica australiana, che si intitola Comunicazioni disturbate. Non sempre parlare male una lingua è uno svantaggio, dice lo scienziato cognitivo Edward Gibson. Le mancanze di chi non è madrelingua di solito sono compensate da chi ascolta, che magari ascolta più attentamente e si facilita così quel dialogo, quell'obiettivo di riuscire a parlarsi, ad ascoltarsi, parlarsi e capirsi anche tra persone che hanno madrelingua diversa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.